con Luca Raffaelli, direttore artistico della Città Incantata, la quinta edizione del meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, ma al Castello di Santa Severa, dal 28 al 30 giugno 2019. Luca, ben trovato. Buongiorno. Ci racconti, partiamo dalle origini per chi non conoscesse il meeting. Beh sì, le origini sono quelle di Cinita di Bagnoregio, dove si è svolta per 4 edizioni, naturalmente una location, come si dice, un set fantastico. Ci spostiamo al Castello di Santa Severa, che è un luogo altrettanto fantastico, forse molto più facile da raggiungere per chi volesse venire da Roma. Basta mezz'ora di macchina e c'è anche il treno, peraltro un posto che conosco molto bene e che verrà veramente invaso da artisti e disegnatori che vogliono parlare della loro professione, ma anche dei problemi che stanno attanagliando il mondo. Quindi naturalmente è un po' provocatorio il sottotitolo dei disegnatori che salvano il mondo, ma insomma se non lo salvano perlomeno hanno l'intenzione di salvarlo. Infatti parleranno in maniera particolare il sabato e la domenica sia dei fumetti che affrontano il tema della mafia, sia dei fumetti che vogliono in qualche maniera abbattere i muri che rendono difficile il rapporto tra popoli e culture. Tra l'altro l'ultimo appuntamento della manifestazione e di questo incontro sui muri sarà con Nicola Zingaretti e Mimmo Lucano, che parleranno naturalmente anche del problema dei migranti. Quanti saranno i disegnatori e le disegnatrici di questa edizione? Saranno tanti, guarda, mi viene persino la polizia a vedere quanti sono. Dunque, saranno, io credo che saranno 50 e anche più, nel senso che non ci saranno solo quelli in programma, non ci saranno solo quelli invitati, ma credo che ci sarà poi una partecipazione speciale di artisti e di disegnatori che verranno proprio a vedere l'evento e che si metteranno ai cavalletti che sono in piazza delle Barozze al castello. Io ho sempre pensato alla Città Incantata come a un happening, una manifestazione che ha dei punti fermi e ne ha tantissimi. Se vedete il programma, veramente ci sono tantissime cose, dalle masterclass, gli incontri con gli autori, e ci sono quest'anno Gabriele Pennacchioli che viene da Los Angeles per raccontare come è passato da Diabolica, Love, Death and Robots, che è una serie che va su Netflix, di cartoni animati per adulti. Poi c'è Zero Calcare, Rita Petruccioli, ci stanno due maestri che vengono dalla Russia, Konstantin Komarbin e Konstantin Bronzit. Poi ci sono le differenze artistiche che si incontrano, in cui due artisti che con il disegno fanno lavori diversissimi, che parlano appunto della diversità del loro lavoro. E per esempio c'è Giuseppe Camuncoli, l'autore dell'immagine della manifestazione, che è uno dei disegnatori di Batman. E poi abbiamo le presentazioni in piazza, cioè gli autori, i direttori di festival, i realizzatori di autoproduzioni che parlano di quello che fanno e gli artisti che contemporaneamente disegnano in piazza. Insomma, veramente tantissima roba nel programma, eppure io penso che poi ci sarà altro materiale ancora, altri eventi ancora che nasceranno lì sul momento. Ecco, questi eventi come si articoleranno nel corso di queste 3 giornate? Da che ora si parte? Si parte da venerdì alle 18 con l'apertura delle mostre, che sono soprattutto dedicate al fumetto e alla mafia. Abbiamo dallo spazio Wow di Milano acquisito una mostra molto bella che parla del rapporto del fumetto con la mafia, e c'è Riccardo Corbò, che fa parte del comitato scientifico della Città di Catania, che fa un altro pezzo di mostra sulla mafia, però guardando i fumetti americani. E lì la mafia ha veramente un'immagine totalmente diversa, viene quasi elogiata come un gruppo di persone che sono delle grandi personalità, no? Come avviene anche nel film Il Padrino, bellissimo, ma in cui il capo mafia non sembra il cattivo, sembra un personaggio molto importante e carismatico. Ecco, affrontiamo anche quel tema lì. E poi ci sarà appunto Gabriele Pennacchioli, di cui ho già detto prima, che farà la sua masterclass alle 18.30, poi sul grande schermo del Castello di Santa Severa avremo due film che sono Poglia sulla scogliera e lo Spider-Man Nuovo Universo, che sono due grandi capolavori del cinema d'animazione, mentre nella sala interna avremo i cortometraggi di grandi artisti italiani del film d'animazione e avremo addirittura la prima mondiale di un film di Donato Sansone, che è uno dei maestri del cinema d'animazione italiano. Tra i grandi incontri quello con Igor, che è uno dei maestri del fumetto italiano, che tra l'altro sta finendo di realizzare il suo film su 5, Il numero perfetto, ma ci saranno anche delle cose molto particolari, perché ripeto, non ci sono solo autori di fumetti e di film d'animazione. Per esempio c'è Filomena Guzzo, che è una disegnatrice di moda e che viene a realizzare una sua performance sui colori, per cui le persone che vengono alla Città Incantata potranno divertirsi con lei a giocare con i colori. E così ci sarà tantissimo altro, perché chiunque vorrà, per esempio artisti anche non noti, magari anche dilettanti, troveranno il loro posto per poter disegnare ai grandi maestri, insieme ai grandi maestri del fumetto e dell'animazione. Poi veramente bisogna andare a vedere il programma, perché ripeto, è molto complesso. Chi sta lì in piazza del Castello di Santa Severa può perlomeno avere tre cose da fare, la scelta di tre grandi incontri da seguire, e quindi insomma venite, veramente ce n'è per tutti e c'è la possibilità davvero di incontrare grandi maestri in un clima informale, in cui appunto si possono incontrare i maestri del fumetto e dell'animazione bevendo un bicchiere di prosecco e chiacchierando del più e del meno. Il meeting si concluderà domenica alle 20, l'ho detto, con il dibattito sui muri. Il manifesto del meeting? È realizzato da Giuseppe Camuncoli, che è appunto uno grandissimo disegnatore di romanzi a fumetti e nonché disegnatore di Batman, che appunto mostra come dal Castello di Santa Severa partano dei supereroi, che naturalmente non sono quelli che conosciamo semplicemente per problemi di copyright, ma sono delle forze meravigliose che si scagliano contro le cattiverie del mondo per poterlo salvare, possibilmente di come si salva il mondo. Sito internet è lacittaincantata.it, giusto? C'è anche progetto abc.it. Benissimo. Ricordiamo la quinta edizione della Città Incantata, meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, al Castello di Santa Severa dal 28 al 30 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Luca Raffaelli. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto, Luca. Viva il lupo!